Terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. In un lago di lacrime. Sempre più stranissimo! Esclamò Alice. Era così stupefatta che per un istante si era del tutto dimenticata come si esclama senza strafare. Adesso mi sto allungando come il più gran telescopio mai esistito. Ciao, piedi! Infatti, quando abbassò lo sguardo, le parve di veder sparire i suoi piedi, tanto se ne andavano remotamente per conto loro. Poveri piedini miei, chi vi metterà le calze e le scarpe adesso, cari? Io? No, di certo. Sarò troppo fuori portata per occuparmi di voi. Bisognerà che cerchiate di arrangiarvi. Ma devo essere gentile con loro, pensò Alice. Altrimenti non andranno più dove voglio andare io. Vediamo un po'. Gli regalerò un paio di stivaletti nuovi ogni Natale. E metteva appunto fra sé i vari dettagli. Glieli faccio arrivare per corriere, pensò. Che cannonata, mandare regali ai propri piedi. E che razza di indirizzo. Al pregiatissimo piede destro di Alice, tappeto davanti al caminetto presso parafuoco. Da Alice con amore. Oh cielo, Alice, resta con i piedi per terra. E in quell'istante la sua testa andò a sbattere contro il soffitto dell'atrio. Adesso era diventata alta 3 metri e passa, e subito si impossessò della piccola chiave d'oro e si precipitò verso la porta che dava sul giardino. Ah, povera Alice! Tutto quel che riuscì a fare fu coricarsi su un fianco e guardare dentro l'apertura con un occhio solo. Passare dall'altra parte era impresa più che mai disperata. Si sedette e scoppiò di nuovo in un pianto di rotto. Dovresti vergognarti di te stessa, disse Alice. Una ragazza grande e grossa come te. Oh, poteva ben dirlo. Lì, a frignare così, dacci un taglio, per favore. Ma lei continuò lo stesso, versando litri e litri di lacrime, finché non le si formò una larga pozza attorno, profonda una decina di centimetri, che allagò metà atrio. Dopo un po', in lontananza, udì un flebile scalpiccio di passi e si asciugò gli occhi in fretta e furia per vedere quest'altra novità. Era il coniglio bianco di ritorno, elegantissimo, con un paio di guanti bianchi, di capretto in una mano e un ampio ventaglio nell'altra, si avvicinava trotterellando a tutta andatura, senza per questo smettere di borbottare tra sé e sé. Già l'anno zero! Oh, la duchessa, oh, sarà troppo furiosa che l'ho fatta aspettare. Alice era così disperata che si sentiva disposta a chiedere aiuto al primo venuto, cosicché, quando il coniglio le fu a tiro, cominciò con voce bassa e timida. Per piacere, signore. Il coniglio ebbe un violento sobbalzo, lasciò cadere i guanti e il ventaglio e sparì nelle tenebre come un fulmine. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide, oh no, no, oh no, oh no. Jennifer! I've got a feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Everybody knows. Oh yeah. Yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the cool down. Oh yeah. Alice raccolse il ventaglio e i guanti e, siccome l'atrio era surriscaldato, prese a farsi vento senza smettere di parlare. Oh, che roba! Roba dell'altro mondo! Tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo! E pensare che fino a ieri le cose avevano un capo e una coda! E se mi avessero scambiata stanotte? Vediamo un po'. Stamattina, quando mi sono svegliata, ero proprio la stessa. Mi sembra di ricordare che un po' diversa mi sentivo sotto sotto. Ma se non sono la stessa, allora domando e dico: chi cavolo sono? Ah, questa sì che è una domanda da 122 milioni. E cominciò a passare in rassegna tutte le bambine più o meno della sua età che conosceva, casomai l'avessero scambiata con una di loro. «Ada, non posso essere di sicuro», disse. «Lei ha tutti quei boccoli nei capelli e io sono liscia come un olio. Ma il più posso essere Mabel. Io so un sacco e una sporta di cose. Lei, oh, lei non sa un H. Inoltre, lei è lei e io e... Uffa, ho perso il filo. Proverò a vedere se le cose che sapevo sono ancora al loro posto. Dunque... 4 per 5, 12, 4 per 6, 13, 4 per 7, povera me, di questo passo non arriverò mai a 20. Comunque la tavola pitagorica non conta, proviamo con la geografia. Londra è la capitale di Parigi e Parigi è la capitale di Roma che è... No, va al tuo posto, devo proprio essere stata scambiata con Mabel. Proverò a ripassare piccola ape. E si mise con le mani intrecciate sul grembo, come quando ripeteva una lezione e cominciò a recitare, ma le uscivano dei suoni aspri e strani, e non è che le venissero proprio le stesse parole delle altre volte. Piccola peste di un coccodrillo, spruzza e sguazza la tua coda, incrociera lungo il Nilo, fra la densa sua fanghiglia, e ti agghindi scaglia scaglia con la melma più di moda. Oh, soave sogghignare, oh, sbadigli sopraffini, zanne senza fil di tartaro son quelle. È un'autentica delizia per granchiette e pesciolini varcar la soglia delle tue mascelle. Non sono le parole esatte, ci giurerei, disse la povera Alice, e di nuovo gli occhi le si riempirono di lacrime mentre riprendeva. Sta a vedere che alla fine della suonata sono proprio Mabel e mi toccherà far trasloco in quella sua baracchetta sciatta sciatta e avrò sì e no uno straccio di giocattolo e oh, oh quante cose che dovrò imparare da capo. No, qui bisogna prendere una decisione. Se sono Mabel non mi sposterò di un millimetro. Inutile che ficchino dentro la testa per convincermi. Vieni su, tesoro. Mi limiterò a guardarli dal basso in alto e dirò: ma allora chi sono? Prima me lo dite e poi, se mi andrà di essere quella persona, ritorno su, altrimenti sto qui finché non sono diventata qualcun altro. Ma, oh cielo! Gridò Alice prorompendo in un pianto dirotto. Come vorrei che mettessero dentro la testa! Sono così stufa di marcire qui dentro tutta sola! Detto questo, si guardò le mani e fu stupita di vedere che, mentre parlava, si era infilata uno dei guantini bianchi di capretto del coniglio. «Ma come ho fatto?» pensò. «Forse sto rimpicciolendo di nuovo». Si alzò e si avvicinò al tavolo per prendersi le misure e scoprì che, a occhio e croce, era alta poco più di mezzo metro e continuava a restringersi rapidamente. Finalmente capì. Era tutta colpa del ventaglio. Folgorato, lo lasciò cadere di mano, appena in tempo per evitare di rimpicciolire fino a sparire del tutto. «Per un pelo!» disse Alice, spaventata un bel po' dall'improvviso cambiamento, ma anche felicissima di esserci ancora. «E adesso, giardino, a noi due!» E a tutta velocità ritornò alla piccola porta, ma... ahimè, la piccola porta era sempre chiusa e la piccola chiave d'oro giaceva ancora sul tavolo di vetro. «E è peggio che andar di notte!» pensò la povera bambina. «Perché non sono mai stata tanto piccolina? Mai! E devo dire che questa volta l'ho fatta grossa, troppo!» E così dicendo, un piede le scivolò via e splash! Si ritrovò dentro l'acqua salata fino al mento. Lì per lì pensò di essere caduta, chissà come, in pieno mare. «Se è così, ritornerò in treno», si disse. Alice era stata al mare una sola volta in vita sua e aveva concluso che, dovunque si vada sulla costa inglese, trovi un sacco di macchine da bagno, bambini che spalettano nella sabbia, una fila di pensioni e, dietro al tutto, una stazione ferroviaria. Ben presto, tuttavia, si rese conto di trovarsi nel lago di lacrime piante da lei stessa, quando ancora era alta 3 metri. «Ah, sarebbe stato meglio se non avessi pianto tanto», disse Alice nuotando in tondo alla ricerca di un approdo. «Adesso sarò messa in castigo, credo. Mi faranno annegare nelle mie stesse lacrime, roba dell'altro mondo. Oh, ma già, tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo». Stop. sé stante, udì qualcosa che sguazzava un po' più in là nel lago e a nuoto gli si accostò per vedere di che si trattava. In un primo momento le era sembrato un tricheco o un ippopotamo, ma poi si ricordò di quanto era piccola e si rese conto che era soltanto un topo scivolato dentro come lei. «Servirà qualcosa ora a mettersi a parlare con questo topo?» pensò Alice. «Tutto è così sfitato da queste parti che non mi stupirebbe se sapesse parlare. Ogni modo, tentar non nuoce». Detto fatto. «Oh, topo, sai come si esce da questo lago? Sono stanchissima di nuotare avanti e indietro. Oh, topo!» Alice pensava che questo era il modo più appropriato di rivolgersi a un topo. Non l'aveva mai fatto prima, ma ricordava di aver visto nella grammatica latina di suo fratello un topo di un topo a un topo, oh, topo! Il topo la squadrò in maniera alquanto indiscreta e le sembrò che le strizzasse uno dei suoi due occhietti, ma non disse niente. «Boh, forse non parliamo la stessa lingua», pensò Alice. «Forse è un topo francese, arrivato qua con Guglielmo il Conquistatore». Con tutta la sua conoscenza della storia, ad Alice non era mai troppo chiaro quando era successo questo e quello. Non si diede per vinta e disse «Ouais, ma chatte?» che era la prima frase del suo sussidiario di francese. Con un guizzo repentino, il topo quasi uscì dall'acqua e sembrò rabbrividire fino alla radice dei peli dallo spavento. «Oh, scusami tanto!» gridò Alice tutto d'un fiato, temendo di aver ferito la sensibilità della povera bestiola. «M'ero completamente scordata che a te i gatti non piacciono». «Sì, mi piacciono i gatti», squittì il topo con un urlo stridolo e impetuoso. «Ti piacerebbero i gatti a te se fossi me?» «Boh, forse no», disse Alice con voce conciliante. «Non prendertela per così poco. Eppure la mia gatta Dina... sono sicura che ti incapricceresti dei gatti se la vedessi. È così tranquilla, un tesoro», continuò Alice quasi fra sé, nuotando pigramente nel lago, «e si acciambella davanti al camino facendo le fusa, leccandosi le zampe e lavandosi tutta, e che cosina soffice da coccolare, e che folgore a prendere i topi, un fenomeno! Oh, ho fatto una gaffa!» gridò di nuovo Alice, poiché stavolta al topo gli si erano rizzati tutti i peli e lei aveva la sensazione che si fosse offeso a morte. «Beh, cambiamo argomento completamente se proprio ti dà tanto fastidio». «Cambiamo!» gridò il topo, che stava tremando fino alla punta della coda. «Come se io avessi mai parlato di una cosa del genere. La nostra famiglia, i gatti, li odia da generazioni. Esseri malvagi, meschini, grossolani. Non voglio neanche sentirli nominare». «Da me mai più», disse Alice, che non vedeva l'ora di parlare di qualcos'altro. «E a te ti piacciono i cani?» Il topo non rispose, perciò Alice andò avanti con veemenza. «C'è un cagnolino così carino vicino a casa nostra. Mi piacerebbe proprio fartelo conoscere. Un piccolo terrier con gli occhi vispi, sai, pelo marrone, tutto ricciolino. E se gli getti qualcosa, corre a prenderlo e si mette a sedere tutto impettito e reclama la sua cena e tutta una serie di cose. Me ne ricorderò sì e no la metà. Il contadino, il suo padrone, dice che è così utile, vale più di 100 sterline. Dice anche che fa fuori tutte le pantegane e... Ah, altra gaffa!» esclamò, vedendo il topo che fuggiva, sbracciandosi a nuoto come se avesse il fuoco alla coda, provocando un mezzo fortunale nel lago. Allora lo chiamò con dolcezza. «Sorcetto caro, dai, torna indietro. Non parleremo più né di gatti né di cani se ti stanno così indigesti». Quando il topo la udì, fece muso coda e con comodo rifece il tratto a nuoto. «Era sbiancato in muso, per la rabbia», pensò Alice, e bisbigliò con voce tremula. «Tocchiamo riva che ti racconterò la mia storia, così capirai perché odio gatti e cani». Era l'ora di muoversi, poiché il lago si stava affollando fino all'inverosimile di uccelli e altri animali che vi erano caduti dentro. C'erano un'anitra e un dodo, un lorichetto e un aquilotto e molte altre strane creature. Alice faceva strada e l'intera brigata nuotò fino a riva. Era proprio un bel campionario quello che si radunò sulla riva. gli uccelli con le penne inzaccherate, gli animali con la pelliccia incollata alla pelle e tutti grondanti, esausti e di pessimo umore. Innanzitutto, naturalmente, bisognava pensare a come asciugarsi. Ci fu una consultazione e, dopo alcuni minuti, ad Alice sembrò del tutto naturale rivolgersi a loro familiarmente come se li conoscesse da una vita. Per la verità, ebbe un'accesa discussione con il lorichetto che finì per impermalosirsi e troncò col dire «Sono più vecchio di te, lo saprò ben io!» Cosa che ad Alice non andava giù se prima non sapeva quanti anni aveva il lori. E siccome questo qua si rifiutava di rivelare la propria età, categoricamente, non ci fu altro da aggiungere. Alla fine il topo, che sembrava godere di una certa autorità fra gli astanti, annunciò «Sedetevi e ascoltatemi, io vi farò seccare in un battibaleno!» Si misero immediatamente a sedere in cerchio, con il topo al centro. Alice gli teneva gli occhi incollati addosso, poiché era sicura di beccarsi un raffreddore se non si fosse asciugata alla svelta.